ラザとインビピピピピピサラダとインビピリピリピリピリ 妹サラダと妹ピリピリピリピリオノオトエレトロニカコメアロピリピリピリピリピリピリ ケーストサウンドピリピリピリピリピリピリピリ prendi tutto lo spazio, prendi tutto lo spazio, prendi tutto lo spazio. Sono andato con la mia moto da motoretta Dylan Johnson, sveglia all'alba in garage con la tua moto. Sei andato un po' lontano con la sigaretta. Yeah. Tanto che si scalda senza fretta in motoretta e poi si parte sull'autostrada a manetta in motoretta e si sceglie il paesello da girare con le curve e giù a sprezzare per le case e salutare gli altri stronzi come me, come te, come me, come te. Ma guarda un po' la motoretta mi rilassa, guarda un po' senza freddo dai motoretta. Il motoretta senza fretta. Parte in motore. Rapaz, só uma guitarra.